Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Che il cellulare fosse un'arma a doppio taglio, utile nelle incombenze di tutti i giorni, ma anche fastidioso per chi non ama essere monitorato e controllato, lo sapevamo già. Ma che gli SMS inviati e ricevuti potessero essere considerati la pistola fumante in una causa di separazione, questa è una novità. D'ora in poi, specie se si è inclini al tradimento, conviene ricordarlo. I messaggi dell'amante sono sufficienti a suffragare la richiesta di separazione, con addebito a carico del coniuge che è venuto meno al dovere di fedeltà. A stabilirlo è stata la Cassazione, che ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Milano riguardo a una coppia scoppiata. Enrico e Fabrizia in effetti non andavano d'accordo da tempo, nonostante nel 2002, in seguito alla nascita di una figlia, avessero tentato un riavvicinamento con scarsi risultati. Due vite parallele, condotte sotto lo stesso tetto e soprattutto restando marito e moglie. È bastato che la consorte andasse a curiosare nel telefonino del marito per incappare in una conversazione inequivocabile con quella che a tutti gli effetti è apparsa essere l'amante. A nulla sono valsi i tentativi di lui per dimostrare che la crisi coniugale era già in atto. Secondo i giudici, il marito ha tradito la moglie e le deve versare 2.000 euro al mese di mantenimento più 3.000 per i figli che sono stati affidati alla donna. Quanti, ascoltando l'introduzione presa da il TG5 su questa sentenza di crisi matrimoniale, sono corsi a guardare il proprio cellulare, ha provato a cancellare, a mettere le password? Non serve a niente, ragazzi, non serve a niente. Allora, entriamo in merito, perché è una questione veramente importante. Allora, noi cosa abbiamo nel nostro telefono cellulare? La nostra vita, tutta. La vita che amiamo raccontare e quella che non amiamo raccontare. Lecito per ognuno, comunque, avere parte della propria vita che tiene ristretta ad alcune persone rispetto ad altre. Esiste un problema che molte volte, nell'ambito di alcune coppie sacrosante, benedette e certificate da un impegno ufficiale e anche civile, ci possano essere delle digressioni. In altri tempi, quando c'era sospetto di queste digressioni, ci poteva essere la colta con il cosiddetto sorcio in bocca, aprire l'armadio, trovare l'amante dentro, ma ti posso spiegare, tornare a casa all'improvviso, trovare il marito a letto con un'altra, ti posso spiegare, cara, mi ero sentito male, questa povera donna ha avuto un attacco di freddo, provavo a riscaldarla, mille scuse. Oggi chiaramente ci sono un'infinità di possibilità in più rispetto al passato, di incontrare persone, di inseguire tentazioni, di resistere a tentazioni, ma c'è un oggetto implacabile che lascia traccia di tutte le nostre pulsioni, anche quelle non realizzate, anche quelle oniriche. Tante signore, amiche mie, si vedono arrivare, che ne so, la melanzana su WhatsApp, che vorrà dire, non lo so, qualcuno ti invita a cena probabilmente, qualcosa del genere, e se il marito di queste amiche mie trova la melanzana che qualcuno manda alla moglie su WhatsApp, è lecito che si arrabbi, che possa alzare dei sospetti? Questo sì. Entreremo in merito anche per vedere quali sono i segnali attraverso l'uso del nostro smartphone che possono un domani essere portati in tribunale come prova inconfutabile del nostro tradimento. Ma c'è una cosa in più che ancora più mi preoccupa, non tanto questa, poi ognuno si faccia i fatti suoi e si prenda le sue responsabilità, magari parli con il linguaggio dei sordi, con gli amanti, oppure con l'alfabeto Morse, oppure usando delle metafore, che ne so, si mandi quella famosa raccomandazione: andate qui che l'aspetta, deve soltanto metterci il timbro, oppure devo aprire quella pratica, urge la sua presenza. Non si inventi le metafore, deve poi mandare i cetrioli, le melanzane, le banane, oppure i cuoricini, oppure i gattini che sprizzano cuoricini. È chiaro che quella è una conferma di adulterio. No, la cosa che più mi preoccupa è che questa sentenza della Cassazione il 30 marzo, di cui ho avuto l'allarmante notizia da un pezzo di Melania Rizzoli sul Libero Quotidiano, dice qualcosa in più, dice che il coniuge in realtà ha un diritto che in realtà nessun'altra persona ha, cioè nelle mura sacre del circolo matrimoniale si può fare qualcosa che se io lo faccio a Fabrizio Intonti o al professor Rocchetti, questo può chiaramente denunciarmi per violazione della sua privacy. La moglie o il marito possono prendere il telefono del coniuge e occhieggiarci dentro. se lui l'abbandona un attimo sulla poltrona e va a fare pipì, la moglie può farlo, può guardarci dentro. L'unica cosa che lo salverebbe magari è metterci una password, in quel caso forse non può violare la password. Beh, questo non è da poco, pensare che il Sancta Sanctorum di tutta la nostra vita, che consideriamo fino adesso inviolabile, in cui nessuno potrà mettere naso e bocca, esiste una deroga, non sa perché c'è una deroga. Dentro casa il legittimo coniuge può fare quello che altri non possono fare. Voi che ne dite? Cominciate a preoccuparvi, è una preoccupazione lecita, bisogna porre dei limiti anche a questo tipo di privatezza, se no è giusto, cioè, ti sei sposato, vivi insieme, cosa vuoi nascondere? È chiaro, è come si deve guardare le tracce di rossetto sul colletto o ti fa l'analisi delle macchie sospette sulle mutande, che vuol dire la stessa cosa, fa parte del gioco. 800 24 00 24, ci sentiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. Lei leggerebbe i cellulari? Però se mi capita lì e leggo, sento un messaggino che arriva ed è lì che sto guardando, confermo. No, assolutamente, come lui non deve leggere i miei, cioè. È comunque una prova, cioè se c'è il fatto è un tradimento. O c'è fiducia e allora ok, va bene, il rapporto va bene, altrimenti se non c'è fiducia, no. Personalmente mi fido e non vado mai a leggere il suo telefono. No, non glielo vado ad aprire apposta, però se è lì e suona. Però penso che qualsiasi persona è portata a... Questa è una vox populi presa da Mattino 5. C'era stato un film, Perfetti Sconosciuti, poi ve lo faremo anche sentire, in cui c'è questo gioco perverso, fanno una sera un gruppo di amici strafighetti Roma Nord, in un appartamento di Roma Pratici, ma scambiamoci i telefonini, succede di tutto. Uno si accorge che la moglie è senza mutande perché il suo amante virtuale ha detto questa sera esci senza mutande, e gli fa alzare la gonna e senza mutande davvero. Un altro si ingroppava la moglie di quello, un altro viene scoperto che è gay. Insomma, nel telefono ognuno ha dei segreti indicibili. Beh, la cosa che ci sorprende però oggi è che il telefono... che il nostro grande alleato, il tutore dei nostri segreti, in realtà diventa il nostro più grande nemico. Sentiamo subito Riccardo. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, salve. Lei se buongiorno. Ci porta subito al dentro della materia. Lei ha capito qual è il problema grosso? È un problema Ho di diritto. Benissimo qual è il problema. Ti parlo per esperienza personale, senza fare populismi o dare facili ricette. Sto andando a conoscere una ragazza in questo momento che è distante da dove vivo io. Io ovviamente, avendo un figlio, spero che questa relazione vada bene. Ho avuto parecchie storie finite male per questo motivo, tra cui quella che mi ha portato ad avere un figlio all'epoca. La mia ex diceva sempre, se io voglio tradirti puoi controllarmi il telefono, ma tanto non lo scoprirai mai. Questo è vero d'altronde. In quel caso ho dovuto usare un keylogger, quindi ho scoperto la sua password tramite il mio PC, quindi l'ho fatto sul mio PC. Vabbè, lei ha fatto un'indagine di spionaggio informatico, è andato oltre, illecito comunque. Sono andato oltre perché volevo sapere... Voleva la prova del tradimento. L'ha avuta? L'ho avuta. Quello che mi ha dato fastidio, avendo tradito io prima... Quindi legittimo, tra virgolette, fare una ripicca, certo, senso, anche se ero innamorato io. Vabbè. Quello che mi ha dato fastidio era lo scambio di ti amo reciproco, quello mi ha dato fastidio. Ti amo? Comunque sì, sono scambiati il ti amo. Secondo lei perché il ti amo detto, scritto su una chat sul computer ha un valore assoluto, ti amo si dice sempre per far contento una persona. Se era un amore platonico tra due persone che magari non si sono viste. O ma lei avrebbe preferito leggere aprimi come una cozza oppure ti amo? Mi faccia capire. Chiacchiere. Se c'è un problema di sesso, allora avrei capito qual era il problema. Io ero innamorato di questa persona, quindi se gli avessi fatto mancare qualcosa in tal senso, mi sarei posto Ma noi ci illudiamo sempre di dare il massimo. In realtà c'è sempre qualcuno che ha un massimo più massimo del nostro, è così. Vabbè, se ne faccio una ragione. Quindi lei... Però non ha a che fare con quello che stiamo dicendo noi. Lei ha ricorso a un'operazione che secondo me è illecita, che non poteva fare, di craccare in qualche maniera la posta della sua ex moglie, ex fidanzata. Però invece lei ha detto che molte volte le è capitato che storie d'amore finissero perché qualcuno è andato a occhieggiare nel suo telefono. Certo, e viceversa. Ecco perché a questa ragazza, nelle discussioni, che siamo 5-6 giorni che ci conosciamo e ci attiamo. L'ultima, sì. Questa ragazza che sto andando a conoscere, ho fatto questa premessa, io non voglio arrivare a controllarti eccetera, per quanto mi riguarda personalmente, visto che se nascerà qualcosa sarà una storia a distanza, ti darò un massimo accesso

perché quello che si scopre sui cellulari c'è un mondo, paesi, c'è un mondo sconosciuto. Nei paesi piccoli, penso alla provincia. Ma perché nei paesi piccoli queste cose non esattamente, succedono? Esattamente, pensa in provincia che si conoscono tutti, una grande città, vabbè. In provincia ognuno scoprirebbe che la moglie va con l'amico, l'amico con l'amica, succederebbe. Allora, io giro per l'Italia, rappresento una grande associazione forense, quindi abbiamo una serie di contatti, di monitoraggio capillari del territorio. Siete, vi posso garantire che in alcuni centri rurali o comunque di poche anime succede di peggio o di meglio, a seconda dei punti di vista, di quello che succede a Roma Nord. Quindi... Sentiamo Rosa. Rosa, buongiorno. Rosa? Pronto? Eccola, l'ascolto. Sì, ci sono, sento male. Allora, io niente, per caso seguivo l'argomento, non la trasmissione, mi seguo. Allora, e mi ha colpito in senso positivo questa sentenza, perché? Perché io ritengo, ma per un'esperienza che ormai ho vissuto un bel po' di anni fa, ecco, che è davvero opportuno ritenere che tutto quello che ci può essere dentro un cellulare all'interno di una coppia sposata, intendo, e sottolineo questo, quindi di una famiglia, di un nucleo già formato, non si può più ritenerlo privacy. Perché? Perché mi è piaciuta anche una frase che avete detto poc'anzi, no? Cioè, tutta quella che è privacy viene sacrificata sull'altare, cioè, signori miei, non bisogna scordarsi queste dovete cose. Pensarci prima, e non bisogna utilizzare tutte le scuse quando invece poi viene scoperto un atto di infedeltà e volerlo farlo passare, ma no, c'era già la prima la crisi, perché di fatto invece quello è l'apice di una trascuratezza da ambie le parti, perché io poi faccio riferimento... Ma lei parla per esperienza personale, la sua veemenza lo certifica. Sì, però io adesso ho 51 anni... Ma lei come ha scoperto che suo marito la tradiva? Un ultimo dialogo... Rosa, come ha scoperto... Rosa, mi risponda, come ha scoperto suo marito la tradiva lei, col cellulare? Come? Come ha scoperto suo marito la tradiva? Come ho scoperto? Guardate, purtroppo difatti all'epoca, torniamo indietro 20 anni fa, io i messaggi legati a degli atteggiamenti, perché poi devi leggere anche la chiave di lettura, devono essere anche i comportamenti, no? Non puoi basarti soltanto si asteneva dal debito coniugale, come era una volta, e uno capiva da quello. Molto chiaro, Rosa, grazie. Stefano Ricci, buongiorno. Buongiorno. Stefano Ricci, avvocato, docente universitario di informatica giuridica, esperto in privacy. Ci serve il suo illuminato parere, Stefano Ricci, perché l'avvocato matrimonialista dice che ormai è materia quotidiana di tutti i giorni che nei fascicoli di cause di separazione e divorzio entrino gli screenshot con SMS, messaggi su WhatsApp e via dicendo. Ma l'aspetto di questa vicenda che più mi inquieta è proprio l'aspetto della privacy. Come mai un concetto che sembrava così sacro e inviolabile cade di fronte alla sacra istituzione, come ha detto prima la nostra ascoltatrice, una cosa suggellata sull'altare, quindi cade anche la privacy? Perché il marito e la moglie possono andare a occhieggiare nei telefoni reciproci senza che niente accada? Ma purtroppo io non farei un discorso così netto, nel senso che la giurisprudenza, soprattutto quella civile, ha appunto affermato sentenze di merito, adesso questa sentenza di Cassazione che però non ho letto, che il rapporto di coniugio giustifica un ridimensionamento, diciamo, della privacy. Si restringe i confini della privacy, esatto, si può fare. Però in realtà non è così semplice. Io in prima battuta sono avvocato penalista e anch'io sono costretto a trattare diversi casi. Ad esempio ricordo una ordinanza di imputazione coatta, quindi una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, ma un intervento da parte di un giudice che ordinava imputazione coatta al pubblico ministero in un caso di produzione in un giudizio civile di conversazioni, e non solo, lì c'era stato anche uno scambio di fotografie avvenute tramite Skype. In quel caso lì il giudice penale del Tribunale di Milano aveva affermato che c'era stato sicuramente un accesso abusivo al sistema informatico, perché in quel caso, un account Skype è protetto da una password, e quindi in qualche modo, e mi rifaccio poi all'intervento del primo ascoltatore che appunto ha parlato della commissione di un reato da parte sua, questo va ovviamente evidenziato, quindi aver capito la password del marito, della moglie e aver avuto accesso quindi a un account, in questo caso un account Skype, è ovviamente reato, e poi aveva ordinato l'imputazione coatta anche per la presa cognizione di questa corrispondenza, essendo la corrispondenza informatica parificata alla corrispondenza normale. Quindi in un caso come questo, in cui comunque c'era stata una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, quindi il pubblico ministero probabilmente aveva aderito a questa tesi di un affievolimento della privacy in un contesto, diciamo, coniugale, c'era stato però un intervento del giudice che aveva ordinato un'imputazione coatta. Ricordiamo che questi reati sono tutti procedibili a querela, quindi l'elemento fondamentale è che ci deve essere stata un'attivazione in sede giudiziaria penale da parte del coniuge che ha sentito la propria privacy, diciamo, violata. L'elemento fondamentale però anche per le fattispecie penali è il consenso, cioè laddove ci sia il consenso anche soltanto presunto da parte dell'altro coniuge, ovviamente il reato non si consuma. Quindi, avvocato Vici, se io lascio il telefono incustodito senza password, sono talmente cretino come se dessi il consenso. L'accesso abusivo al sistema informatico presuppone che ci sia una protezione una protezione che può anche consistere in una misura di sicurezza, ma ci deve essere quantomeno una implicita manifestazione di volontà che l'altro non acceda al nostro sistema. Lascio un computer aperto con Skype collegato e poi me ne vado magari a fare una passeggiata, è colpa mia, non posso prendermela con nessuno. Lì diventa una questione che poi valutano magistrati caso per caso in base ad altre circostanze. Ricordo un altro caso in cui il rapporto... Ma fermo un attimo, avvocato, non la voglio interrompere, siccome devo dare un attimo la linea alle informazioni del traffico, prenda respiro solo un secondo, poi riprendiamo con lei e con l'avvocato Gassani. Interessante, un matrimonialista e un esperto in privacy messi insieme, mamma mia, vi daranno la formula di salvezza? No, sicuramente no, non c'è via d'uscita. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Melog, cronache meridiane. Oh, qua dentro ci abbiamo messo tutto. Questo qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro? Capirai, a me lei non me lo darebbe mai il suo. No, che problema c'è? Ecco, tieni, prendilo. Guarda che lo prendo sul serio. Prendilo. Lele, lascia perdere. Dagli tre mamma. Allora io esigo che tu lo prenda, però poi metti il tuo qua sopra. Capirai, ci troveresti dentro soltanto i messaggi del pediatra. Ah, e quelli di tua sorella che mi chiedi di tua madre. Perché lo chiedi a te? È perché lo chiedi a te, Lele. Non risponde al telefono. E tu lo daresti il tuo a Cosimo? Figurati, io non ho neanche il PIN. Amore mio, ma non lo vorrei io il tuo. Questo dire. Prima di scambiarsi i telefoni, non vi voglio fare lo spoiler, ma vi assicuro che ce n'è per tutti dopo. Ma è sempre così, uno fa il grande, ma sì, guarda, figurati, se pensa di aver già cancellato tutto e tolto tutto, tutti hanno scheletro nell'armadio, ma anche minimi, anche sciocchi, anche stupidi, anche soltanto dover spiegare perché in tonti mi ha mandato il cuoricino, ma che ne so, magari per sbaglio, che ne so, vuole prendermi in giro, vai a poi giustificare che non c'è una liaison, capito? Mi ero interrotto un attimo con l'avvocato Stefano Ricci, mi sta spiegando una cosa abbastanza complicata da capire, ma però va spiegata bene. Avvocato Stefano Ricci, ricordo, sì. Docente di informatica giuridica, esperto in privacy. Allora, mettere una password sul proprio telefonino comunque dovrebbe blindare dal fatto che uno ci metta il naso, anche se fosse il legittimo marito o la legittima moglie. Esatto, un elemento fondamentale è quello della la misura di protezione. Ma mettete un PIN e state tranquilli, ecco.

E comunque quel cellulare, chiaramente, senza password, sa, quei classici cellulari Nokia degli anni 80, sa, quelli là proprio SMS solamente. Solo SMS. Beh, una professionista, devo dire. Ho acceso il cellulare, giù il mondo, ma è impressionante. Cioè, cosa ha capito? Cosa ha capito? Vabbè, ma c'era di tutto, c'era anche messaggi tutto. Porno. C'era di tutto. Ma no, le foto no, descritte solo. No, foto no, no, no. Beh, messaggi, vecchio cellulare. Messaggi. Sono qui tutta nuda, immaginami così. Ma diciamo, da parte di lui soprattutto che... Sono qui con il mio obelisco di carne, queste cose classiche. Sì, vabbè, sì, tutte queste classiche. Cose qui. Messaggi di appuntamento, messaggi dove ancora più grave, secondo me, lei prendeva praticamente a parolacce una... seconda, diciamo. Però Massimiliano, le posso dire una cosa, non sì. A suo conforto, se scrivevano tanto, trombavano poco, perché chi no, avvocato Gassani, la sua esperienza cosa le porta a dire? Ma cioè, insomma, la grafomania non è mai compagna di una sana clandestinità, penso, no? Devo dire che questi cellulari, soprattutto WhatsApp, sta ridisegnando il concetto di fedeltà e anche del livello di differenza tra uomo e donna. In effetti sono uguali ormai uomini e le donne. Fanno le stesse identiche cose, non accetto differenze di genere o moralismi. Quando si dice l'uomo è fedifero, non è affatto vero che lo sia solo l'uomo, lo sono anche nelle coppie gay, lo sono in tutte le coppie. Nelle coppie esiste l'infedeltà. Quindi è il concetto di coppia. Sì. Ma è vero che ci sono dei parlamentari che stanno portando avanti una legge per abolire anche l'obbligo di fedeltà al matrimonio? Io credo che lo stiano facendo per mettere una pezza a colori rispetto a quello che hanno fatto con le unioni civili, perché voi sapete benissimo che nell'ultimo testo hanno espunto dal testo. Punto, l'obbligo di fedeltà nelle coppie omosessuali. Questo ha determinato alcune polemiche, come se gli omosessuali fossero depositari di valori minori. O una sorta di lussuria genetica, per cui che per non loro è così non vale. Affatto. Per cui probabilmente per pareggiare i conti vorrebbero togliere l'obbligo di fedeltà anche nelle coppie sposate eterosessuali. Potremmo anche discuterne. Questo significa comunque in ogni caso. Ma di che colore sono questi parlamentari? No, è trasversale. Tutti d'accordo. Sì, significa che tutto sommato nel comune sentire l'infedeltà e il tradimento non viene visto neanche più con quella gravità di una volta. Insomma, siamo passati dal delitto d'onore alla l'obbligo di fedeltà. Che differenza c'è più fra un matrimonio e un qualsiasi rapporto tra due persone? Infatti, se dopo l'obbligo di fedeltà, secondo me a questo punto il matrimonio può anche morire, insomma, cioè, già adesso è in crisi. No, figuriamoci ma giusto contratto, io e te decidiamo di vivere assieme, di fare dei figli, di dividere le spese, di stare assieme finché ci va. No, io lo introdurrei anche nelle coppie gay, forse per me, perché io credo profondamente in quelle coppie e nella sacralità di quella coppia. Quindi la mia storia di voler fare i modernisti a tutti i costi, no, a me non piace. Quindi tutti fedeli devono essere, secondo te? No. O tutti infedeli? Ognuno decide quello che vuole, ma addirittura legalizzare le corna mi sembra un po' troppo. Altrimenti a questo punto sapete che si può fare? Abroghiamo il matrimonio. Per me sta bene. Tanto è vero che Gassani, io consiglio ai miei amici di non sposarsi. Gassani, vi finisce il mestiere, voi sabolisco le corda. È un po' sì. Vabbè, ma noi lavoriamo non solo sulle separazioni di divorzi, ma io dico a tanti miei amici di non sposarsi, quindi evitare ecco, l'ipocrisia. Evitiamo l'ipocrisia. Non ti sposa, basta, convivi. Beh, uno ci pensa dopo, però all'inizio è bello, è innamorato. Sì, il matrimonio, la fede, il banchetto cafone con 300 ospiti, il viaggio di notte. Poi alla fine corna a destra e a sinistra. Spingono i genitori, papà e la mamma vogliono. Alfredo, velocemente, Alfredo. Sentiamo Ricci. Alfredo. Pronto? Sì, l'ascolto. Ah, buongiorno signor Nicoletti. No, niente, io siccome proprio ieri ho visto sul Libero con un SMS. Melania Rizzoli, quella che citavo oggi, la persona che ci ha aperto questa finestra sull'imponderabile. Benissimo, ma io volevo capire una cosa che non l'ho capita, cioè io sono separato da poco, cioè abbiamo finito la causa, io ho colto mia moglie in flagrante, nel letto suo, vabbè. Col socio in bocca, come si dice a Roma, così. No, voglio dire, in flagrante. La stessa cosa. In presenza delle forze dell'ordine, perché ha fatto irruzione con i carabinieri e l'ha trovata a letto. Benissimo, perché pensavamo. Ma lei sapeva che, era lì. Pensavamo che c'era un intruso in casa, tipo ladro, invece. L'intruso c'era. Un'intrusione c'era comunque in qualche maniera. Bene. Ma lei cosa sentiva? Dei rumori, delle urla? Ah, ti prego, lasciami così. No, è il classico. Uno esce per andare a lavorare, poi un errore, una cosa, ritorna e trova

successiva, diciamo, alla Seconda Guerra Mondiale, è piuttosto il privato che invade il pubblico. Esattamente questo è il punto, esattamente questo. Noi ci pensavamo ai Grandi Fratelli, ci ispirano i nostri governanti, ma no, in realtà è esattamente il contrario. Lentamente si erode questa nostra euforia che avevamo di avere un attrezzo in mano che, nel quale era possibile mantenere in memoria tutta la nostra vita emotiva. Sì, potremmo farlo, ma rendiamoci conto che non appartiene più soltanto a noi. Esattamente, esattamente. È inarrestabile questo tipo di trend, gli strumenti di condivisione sono lì a disposizione e quindi è necessario sin da subito, sin dal momento, diciamo, dell'educazione, soprattutto dei più giovani, abituarli a questa nuova sfera né privata né pubblica che devono saper maneggiare con gli strumenti adeguati e con la consapevolezza adeguata. Pensiamo che fino a una generazione fa lo strumento di massima riservatezza poteva essere il diario, andare a mettere gli occhi nel diario di una moglie, di un marito, le volte scoprivano cose inenarrabili. Dopo la morte i nonni leggevano il diario della nonna e scoprivano che la nonna era innamorata dell'amico di famiglia, delle cose da romanzo. Oggi è tutto memorizzato. Sentiamo Luca, Luca è interessante. Luca, buongiorno. Buongiorno. Sì, l'ascolto. No, volevo dire che io mi sento in questo momento nudo perché la mia ex moglie, dalla quale sono separato, ha beccato in casa mentre ero via il mio telefonino, il secondo telefonino, quello con le cose nascoste, private, molto molto molto. Quello polacco, molto si chiama così, come si chiama così? E come? Il telefono polacco, come lo chiamate? Non gli do un nome particolare, metto l'altro, diciamo. Vabbè. Dove è praticamente. Era quello della sua vita privata, diciamo. Molto privata, piena di cose. Vabbè, sono fatti suoi. A questo punto io mi sento. Non ho le prove del fatto che lei lo abbia fatto, però sicuramente conoscendo il tipo lo ha fatto. Ma lei perché l'ha lasciato in giro senza passo? Perché me lo sono dimenticato. Era sotto carica, sono uscito di casa, sono tornato dopo 3 ore e ho visto sguardi e frasi. Cioè, ha capito tutto. Ho capito tutto e dentro c'era un mondo di cui sinceramente era molto privato. E come è andata a finire? Come è andata a finire poi? È andata a finire che non lo so, nel senso che in questo momento io mi sento come se fossi stato violentato da un certo punto di vista. Sì, dal punto di vista legale non so se riuscirò a far ammettere questa cosa. Ma sua moglie ha già fatto gli atti, già portato tutto l'avvocato? Noi siamo già separati, però viviamo in una villa e abbiamo. Ah, quindi eravate già separati, quindi ha scoperto il mondo che già sapeva, comunque niente di nuovo. Guardi, forse immaginavo qualcosa, ma quello che ha letto secondo me non lo poteva immaginare. E lei ci ride, Gianetto Regassani. No, a parte il fatto che con te in trasmissione non si può stare perché tu fai ridere a prescindere dall'argomento, con quelle facce che fai. Ma detto questo, credo che sia una cosa veramente difficile da sopportare. Però era diritto della moglie di farlo a quel punto. Ma guardi, io su questo provvedimento della Suprema Corte di Cassazione sono d'accordo fino a un certo punto. Perché io credo che comunque la riservatezza, la privacy sia un valore. Noi non possiamo pensare che per giustificare la voglia di sapere se l'altro tradisce o no si può arrivare a questo punto. È chiaro che dovremo aspettare le prossime pronunce. Certo è che è angosciante che l'altro coniuge possa avere un cellulare anche con la password. Attenzione, ci sono dei sistemi anche per poter arrivare. Certo. Sì, ma però come ci dice l'avvocato Ricci, se c'è la password e tu violi la password è un'altra storia, vero? Sì, Ricci? Sì, sì, certo, però comunque purtroppo devo dire c'è l'escamotage avvocatesco di dire non c'era la password, oppure ho trovato questi messaggi già stampati in un cassetto e te li utilizzano. Molte volte sullo schermo appaiono, se uno non è attento, diciamo, i primi messaggi li leggi direttamente se accendi se apri il telefono, sì. Poi li puoi andare dentro. Avvocato Ricci, mi conferma il fatto che però se c'è una password non può il coniuge forzarla in qualche maniera? Sì, da questo punto di vista abbiamo sentenze, giurisprudenza ovviamente penale, che confermano quello che stiamo dicendo. Cioè, nel momento in cui c'è una protezione, nel momento in cui c'è una misura di sicurezza che è stata adottata, quindi esplicita la volontà di non consentire l'accesso anche al proprio coniuge, violare questa misura di protezione e quindi accedere a quei dati comporta un accesso abusivo al sistema informatico e eventualmente anche una presa cognizione della corrispondenza informatica, che anche quella è un reato a sé stante. Quindi, avvocato Ricci, voglio dare in conclusione. Se volete il giocarello, avere il telefono in cui mettete tutto quello che vi pare della vostra vita, abbiate l'accortezza di saperlo usare. E cancellate almeno. Cancellate e mettete una password e finisce il problema. Se no, inutile. Ormai avete capito esattamente come sta la questione. Auguri a tutti in bocca al lupo, soprattutto quel doloroso signore. Questo giorno ci ha dato un'emozione così dolorosa ma anche così profonda e ci ha insegnato molto della vita. Tutto può accadere. Grazie Gassani, grazie. Grazie, Ricci. Grazie a voi.